Wall Street, I viaggi del lupo. Ci siamo anche per questo venerdì, eccoci qua in diretta a tutti gli amici che ci ascoltano su Radio Lupo Solitario. Io sono Domenico Biancardi. Il numero per contattarci su WhatsApp è 338-222-8983. E da questa settimana entriamo un po' nel vivo di quello che è Wolf Trips e i viaggi nell'underground. Le tappe della settimana comprendono tantissimi dischi nuovi. Iniziamo subito, infatti. Tra i principali abbiamo il nuovo di Soul Walks, di Cloud Chord, insieme a The White Panda. E iniziamo subito con Sampa. Artista a cavallo dell'elettronica e del soul, questo brano è molto molto interessante. Iniziamo bene questa puntata di Wolf Trips. E Sampa, dopo il suo primo album, rilascia anche queste due nuove tracce. E tra l'altro l'artista è stato il 21 marzo al Fabric di Milano ed è stato anche ha avuto anche un discreto successo. Passiamo ora a Kid Wast, un brano quasi magico con un drum molto accentuato che dà la giusta carica e ritmo. It's a good thing. The past was just a speck in time, a place to push our dreams. We both had the feeling we wouldn't be the same. We love staring at the ceiling, forgetting our own names. In the meantime, I'm moving. definito future pop questa Friends di Kid Wast e Trace, ad avere una bella melodia ed è qualcosa di nuovo. Saliamo di ritmo con Xylo e Get Closer. Originale è un po' un brano indie e con questo remix passa quasi dalla dance alla deep, mi ricorda un po' i brani di Deadmau5. Ora continuiamo il nostro viaggio con Diane, What Fiction Is For. Diane con Watch Fiction Is For, un super mischione di generi che vanno dall'alternative pop ai sintoni quasi funk e alla musica indie rock. Questo è un brano veramente bello. Il prossimo brano di Busy P ci riporta direttamente nell'elettro funky. Busy P con Jenny. Per il produttore francese Busy P, affiliato all'etichetta Headbang Records, torna alla grande con questo brano Genie, che ricorda un po' nello stile gli Chic, band che credo non abbia bisogno di grandi presentazioni. Andiamo subito a ascoltare infatti gli Chic con Show Me Your Light. Del lupo. We'll be right back. your number. I never saw you through. And I think you're missing wires, like a self-inflicted wound. Sono i Soul Walks con Missing Wires, un gruppo musicale che sarà a Milano a fine marzo. I Soul Walks erano da un po' che non producevano nulla di interessante, ma questa Missing Wires mi piace parecchio. Il brano mi ricorda molto gli LCD Sound System, un gruppo diciamo di qualche anno fa, e andiamo proprio ad ascoltare loro con Losing My Edge. I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids from France and from London. But I was there. I was there in 1968. I was there at the first Cannes show in Cologne. I'm losing my edge. I'm losing my edge to the kids whose footsteps I hear. When they get on the decks, I'm losing my edge to the internet seekers who can tell me every member of every good group from 1962 to 1978. Although I'm losing my edge, I'm losing to all edge. The kids to the art school Brooklynites and Berlin and little jackets. And borrowed nostalgia for the unremembered 80s. Well, I'm losing my edge. I'm losing my edge. But I was there. I was there. every night on the decks. But I was there. I was there in 1974. The first suicide practices in a loft in New York City. I was working on the organ sounds with much patience. I was there. Captain Beefheart started up. Questo è Wolf Trips e loro sono gli LCD Sound System. Hanno esordito con il brano Daft Punk Is Playing In My House e sono un gruppo indie statunitense. Questa sera abbiamo ascoltato il brano Losing My Edge del 2002. Il suo genere un po' sta ritornando nei brani che abbiamo ascoltato ultimamente e soprattutto anche nel brano di Soul Walks che abbiamo ascoltato prima. Cambiamo beat completamente, passiamo dal genere elettronico, un'altra tipologia di genere elettronico, con Fam e Sober Rob. E questo è il brano Alibi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Stars erased against the speed of light. Sing me long for your sweet songs, my lullaby. Hold me close, I get tingles, my fingers can separate touch. Sing me long for that sweet song, it resonates ours. Alla dubstep. Loro sono Fam e Sober. Uno è della Polonia e l'altro di Los Angeles. Questo è uno dei progetti nati sul web. Hanno poi aggiunto questa voce di Madi, ottenendo un effetto molto pop sul loro brano. E in una settimana hanno totalizzato circa 250.000 visualizzazioni su SoundCloud. Quindi seguiremo molto attentamente questo duo di produttori. Ora passiamo al brano Came to Los Angeles con un remix dei French Horn Rebellion. We'll be right back. distance, love. Need a little one-on-one. So baby, get up on that plane. Come and stay a couple days. Need to hear you screaming my name. Cantato super pop e giro di sax rendono questo brano estivo, quasi da spiaggia, anche se un po' presto, ma questo brano Came to Los Angeles mi porta veramente già all'estate. Questo è davvero un bel remix fatto da French Horn Rebellion, che tra l'altro ho visto in un video fare praticamente quasi tutto live. Continuiamo il nostro viaggio con un brano di Cloud Chord. questo è Wolf Trips e oggi stiamo veramente passando un po' di tutto. Siamo partiti dal soul al funky e adesso siamo sulla dubstep con questo brano di Cloud Chord, un brano che sta passando un po' in sordina in realtà, però mi piace molto il mix tra la progressive e la dubstep. Sono certo che ne sentiremo parlare molto. Ora andiamo un po' più sul mainstream con un brano, anzi un remix di The White Panda di Bebe Rexha. I can see you hurting, I've been through the same thing. Baby, don't you worry, I got you. I just wanna know you, tell me all your secrets. Sono i The White Panda e non sono nuovi ai restyling di pezzi pop famosi. Questo remix introduce anche un bel synth stile xilofono e un drum dubstep molto trascinante. Continuiamo con il remix in stile mainstream con un remix di Dua Lipa. Music blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. I can't stop thinking about you. Thank you. always hate me. Music blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. Lei è Dua Lipa e questo brano Thinking About You è nel remix di Seppi, bel remix dubstep con voci super mega campionate. Questo stile mi ricorda molto lo stile della cantante Mia. Adesso infatti andiamo proprio ad ascoltare un brano della cantante Mia con Sound Showers. Window, bingo, good I'm in the bingo. Now what I'm doing my bingo. Quit bending all my bingo. Quit beating me like your Ringo. You wanna go, you wanna win the war. Like PLO, I don't surrender. Del 2005 che mixa l'elettronica all'hip hop, che sta tornando anche un po' molto di moda in questo periodo, mischiando sempre di più i cantati pop e la musica elettronica. Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano della serata ed è un remix degli Adventure Club. Something about their through. out. Wolf Trips, I viaggi del lupo. E loro erano gli Adventure Club con una versione remix. Per oggi abbiamo concluso il nostro viaggio e Wolf Trips torna la prossima settimana con un nuovo viaggio nell'underground e tantissime novità musicali. Ciao!